Settimana scorsa la regione ha approvato un emendamento a una leggina che riguardava misure urgenti a favore dello sviluppo economico, e questo emendamento sostanzialmente dice che tutti gli affidamenti del servizio idrico della regione Emilia-Romagna, a parte i territori di Reggio Emilia e Rimini dove sono in corso procedure di gara, ma per tutti gli altri territori c'è una proroga fino alla fine del 2027. Un emendamento che è stato approvato da tutti i gruppi consiliari, con l'unica eccezione di Europa Verde e del gruppo misto, che però hanno semplicemente non partecipato al voto. È un emendamento di una gravità inaudita dal nostro punto di vista, perché appunto dice che da qua fino al 2027 continueranno i grandi soggetti privati, le grandi multiutility a gestire il servizio idrico. È un grande regalo, in particolare a ERA. Lo dico perché alla fine di quest'anno c'è la scadenza della concessione del servizio idrico a ERA a Bologna. Alla fine del 2023 sarebbero scaduti gli affidamenti a Forlì, Cesena e Ravenna, alla fine del 2024 a Modena e a Ferrara. Con un colpo di spugna si dice semplicemente si va alla fine del 2027, sia dal punto di vista del metodo, un emendamento messo in una leggina senza aver parlato con nessuno, non con i comitati dell'acqua, con nessun soggetto ambientale, con la rete emergenza climatica ambientale, e sia ancora nel merito perché si conferma che le grandi multi-utility fanno la politica sull'acqua e sui rifiuti in questa regione. Voi in realtà avreste invece voluto cogliere l'occasione della scadenza di queste concessioni per aprire un discorso sulla ripubblicizzazione dell'acqua. Certo, in particolare a Bologna, dove, come ricordavo prima, la concessione scade alla fine dell'anno, non più tardi di 15 giorni fa, come i comitati dell'acqua, abbiamo avuto un incontro con rappresentanti di Atersi, con rappresentanti del consiglio locale, dove sono presenti gli amministratori del territorio bolognese, e con docenti dell'Università di Bologna, per decidere di produrre uno studio sulla possibile ripubblicizzazione a Bologna. E forse uno pensa male, ma come qualcuno diceva, pensare male forse ci si prende, però appunto stavamo mettendo in piedi con l'Università di Bologna questo studio sulla possibile ripubblicizzazione, e improvvisamente piomba come fulmine a ciel sereno questa decisione. Non penso che ci sia bisogno di commentare più di tanto, no? Per la prima volta c'è la possibilità della ripubblicizzazione, perché ricordo che quando scade la concessione sostanzialmente si può ripubblicizzare a costi zero, se non insomma assolutamente abbordabili, e dopodiché si dice si va fino alla fine del 2027. Quest'anno è il decennale del referendum. A Bologna si poteva aprire una stagione che dava finalmente risposta a quell'esito referendario, si sceglie di andare in una strada completamente opposta. Vorrei sapere cosa ne pensa il neoeletto sindaco di Bologna. Il neoeletto sindaco di Bologna, ho letto in un'intervista, dice: vogliamo fare di Bologna la città più progressista d'Italia. I nostri esempi sono la sindaca di Barcellona, Ada Colau, e la sindaca di Parigi, Hidalgo. Ricordo che a Parigi è stato ripubblicizzato il servizio idrico, che a Barcellona è in corso un analogo processo di ripubblicizzazione, e a Bologna cosa si dice? Cosa dice il neosindaco di questa decisione della regione che sposta definitivamente la possibilità della ripubblicizzazione? Rimane il fatto che a Bologna si stava aprendo una discussione per la possibile ripubblicizzazione, e appunto arrivano decisioni che sostanzialmente dice no, non c'è problema, ERA, le grandi multi-utility possono continuare tranquillamente. Anche la motivazione di questo mini emendamento è decisamente scandalosa. Si dice: siccome arrivano i soldi dal piano nazionale di ripresa e resilienza, bisogna mettere i gestori in una situazione di continuità per poter fare gli investimenti, e quindi appunto gli concediamo la proroga fino al 2027. Anche da questo punto di vista non c'è dubbio che appunto viene utilizzato il PNRR per costruire una strategia che guarda nuovamente alle privatizzazioni del servizio idrico e in generale dei servizi pubblici locali. Ovviamente noi ci stiamo mobilitando, abbiamo indetto come comitati acqua pubblica e come rete regionale per l'emergenza climatica e ambientale un presidio sotto la regione per il 3 novembre alle 14:30. E bisogna dare un segnale importante che queste cose non possono passare sotto silenzio. Inoltre stiamo approfondendo la vicenda anche da un punto di vista giuridico, nel senso che, per usare un eufemismo, noi avanziamo sappiamo anche il fatto che ci possono essere degli elementi di illegittimità giuridica nella decisione, e solitamente gli affidamenti del servizio idrico vengono decisi dall'autorità di bacino, dall'agenzia regionale Atersir, e non per legge regionale. Questo è previsto anche dalla legislazione nazionale, che dice espressamente che sono le autorità di bacino, non le regioni, che decidono gli affidamenti. E quindi stiamo approfondendo questo tema, perché abbiamo intenzione, con la mobilitazione, se del caso anche dal punto di vista giuridico, in qualche modo di far valere le nostre ragioni.